Buongiorno e ben ritrovati, questo è l'Early Bear Special, questa è la prima colazione che serviamo tutti i giorni, dalle 6 alle 7, qui da Rock FM. Io sono Chuck Bird, ma gli amici oramai mi chiamano Chucky Boy, anche in questo giovedì. Abbiamo un sacco di ottima musica da ascoltare e qualche bella storiella sul rock and roll. So che vi piace, so che avete scritto, so che mandate gli sms e io sono felice. Vi amo, passerottini e passerottine, e per questo vi regalo Creedence Clearwater Revival, Green River. We'll be right back. Creedence Clearwater Revival. Ho un ascoltatore molto particolare che mi segue quasi tutte le mattine e permettetemi di salutarlo. È il grande Fabione, Fabio Travers, che si occupa di blues con Blues Express qui dalle frequenze di Rock FM. Mi ha raccontato che già un paio di volte si è fermato al semaforo con i lucciconi per la buona musica che ascoltava già alle 6 del mattino. Preparati Fabione, perché la prossima canzone sono sicuro ti colpirà proprio nel centro del cuoricino blues che hai in mezzo al petto. You Really Got Me, questi sono gli incredibili Kinks. Got me, woo! You really got me. Nonostante siano passati tantissimi anni dall'ultima volta che ho avuto modo di vedere al cinema Quadrophenia, beh, la scena che mi rimane più impressa è quella dove il Mod e Rocker fanno praticamente il bagno insieme in due stanze separate, ma contemporaneamente. Uno canta Bebopalula, she's my baby, naturalmente il rocker, mentre il Mod di rimando fa You really got me, woo, you really got me, e poi alla fine vogliono menarsi, poi scoprono di essere amici. Ma queste sono storie che la maggior parte di voi conoscerà, perché Quadrophenia naturalmente è un film che deve essere visto. E altre storie che magari non conoscete riguardano i Clash, quando filmarono il video di Rock the Casbah, ma ve la racconterò a tempo debito. Per il momento Bon Jovi, Always. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Forever, of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always and I'll be there forever in the always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say this words to you. Beh, la sapete la storia, Video Killed the Radio Star, la televisione che uccide la radio e bla bla bla bla bla. In teoria noi dovremmo essere gli ultimi a parlare di videoclip, il grande nemico della radio. Invece, visto che sono Chuck Bird e posso fare quello che mi pare, vi parlerò di video, anche perché i capi a quest'ora non sono ancora svegli. Vi vado a parlare di un video, quello di Rock the Casbah dei Clash. Don Letts, il DJ dai dreadlock lunghissimi, era stato designato nel ruolo di regista. Le riprese si effettuarono ad Austin, in Texas. L'atmosfera sul set però era piuttosto tesa. Mick Jones, il chitarrista dei Clash, era scontento. Portava un berretto mimetico che gli copriva il viso e si presentò con un paio di mutandoni lunghi rossi e un paio di Doc Martens neri. Don Letts gli dice che sembra un fiammifero e gli altri si ammazzano dalle risate. Perché Don Letts lo sapeva. Se si fosse fatto riprendere così, Solo perché aveva la luna storta non se lo sarebbe mai perdonato. Ti rivedrai per sempre con l'aspetto da coglione che avevi al momento delle riprese. Un po' come Totti, quando l'Italia vinse il mondiale di calcio, lui con la maglia in testa che lo faceva somigliare a mia nonna. E quelle immagini sono state trasmesse in tutto il mondo, per non parlare delle foto che rimarranno per sempre nelle pagine dei libri sportivi. Beh, tornando ai Clash, che è meglio, alla fine delle riprese Joe Strummer toglie la maschera dalla faccia di Mick Jones. La cosa più divertente in assoluto della giornata fu vedere un nero con dei dreadlock come Bob Marley alle prese con una punk rock band, un arabo e un ebreo. E un fiammifero con la luna storta. Eccoli Clash all'Early Bird Special, proprio con Rock the Casbah. Best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Maybe she I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Together now. Forza ragazzi, cantiamo. È molto presto, ma lo possiamo fare perché siamo dei rocker. E se siete dei rocker vuol dire che siete sintonizzati su Rock FM. E se sentite la mia voce vuol dire che siete all'ascolto dell'Early Bird Special con Chuck Bird tutti i giorni dalle 6 alle 7. Questa è la prima colazione che serviamo da queste parti. E naturalmente per il sottoscritto in questo momento è arrivato il tempo della... ennesima tazza di caffè nero bollente che mi viene portato naturalmente da Da Dolce, elegante, sensuale. Cherie, welcome, Cherie. Early Bird Special, prima colazione, la primissima che serviamo qui a Rock FM, tutti i giorni dalle 6 alle 7, anche il giovedì, anche il 4 ottobre, eh sì ragazzi, cominciamo a indossare le giacche pesanti, i maglioncini, i gilet, le camicie di flanella, non esageriamo, noi vi teniamo caldo con il rock and roll e questo secondo noi è una grande cosa, per voi Journey, I'll be alright without you. Don't leave me lonely. I'll be alright. I'll be alright without you. Starò molto bene anche senza di te, però se ci sei è tutto un altro paio di maniche. Naturalmente sto parlando dell'Early Bird Special. Eh già, dalle 6 alle 7 questa è la colazione del vero rocker. Dopo di me, dalle 7 alle 9 ci sarà l'Ariel, il Freak Anthony, pane, burro e rock and roll. Ma non corriamo, perché ancora una volta il vecchio Chuck Bird ha in serbo per voi delle belle storielle. Ad esempio quella degli Oasis sul palco di Yokohama. Siete curiosi? Allora per il momento vi beccate i Guns N' Roses e dopodiché ne riparliamo. Hey, sweet child of mine. Guns N' Roses. Beh, certo che ironizzando con il loro moniker erano più pistole che rose i rapporti tra i componenti della band. E la cosa caratterizza la maggior parte delle band in circolazione. E non parliamo degli Oasis. I due fratelli Gallagher se ne sono date di santa ragione più e più volte, facendo parlare del loro rapporto tutt'altro che fraterno la stampa specializzata del mondo intero. E non è che i due si limitassero a litigare a casa loro o nel backstage. Succede che a Yokohama la band attacca Stand By Me. Liam, o Liam, cicca clamorosamente la prima strofa e Noel gli si avvicina gridandogli: se ti fossi fatto vedere qualche volta di più alle prove, forse le parole te le ricorderesti, coglione. Cazzo, era meglio se piazzavamo un paio di altoparlanti nel pub, così almeno sentivi come funzionavano i pezzi. Beh, Noel sorride sornione e si rivolge a più di 2000 giapponesi adoranti chiedendo: ehi, c'è qualcuno che ha un biscotto? Sono fatti così i fratelli Gallagher. Eccoli, al meglio della forma con Little by Little. Ehi, qualcuno ha un biscotto? We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. Dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. You know I don't mean what I just said. But my God woke up on the wrong side of his bed. And it just don't. FM. Calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Mama, I'm sure all the hand and I just around. Black House, ve l'avevo detto e ve lo confermo, solo grande musica qui a Rock FM, in particolar modo, con un motto di orgoglio, qui dalle 6 alle 7, non scherziamo niente. Questo è l'Early Bird Special, noi vi vogliamo coccolare, cari miei passerottini e le mie passerottine. Io sono Chuck Bird, che purtroppo in questo momento vi deve salutare. Come tutte le cose belle, anche questo Early Bird Special di giovedì 4 ottobre si conclude qui. Ma vi lascio in buone mani, quelle di Ariele, Frick Anthony e pane, burro e rock and roll. Da Chucky Boy è tutto. Aloha!